abbiamo fatto, come ripeto, un accordo programmatico. Questo accordo, questa intesa prevede anche un gruppo unico. Di Pietro ieri ha detto che intende mantenere questo impegno e quindi noi avremo l'opportunità, secondo lo schema che Mantovano diceva, che è molto importante, perché se noi facciamo semplificazione, poi in Parlamento di nuovo c'è la frantumazione, siamo da capo, avremo l'opportunità, diciamo così, di normalizzare un po' sfumature, differenze dentro a un contesto di un gruppo unitario, quindi questo non dovrebbe crearci particolari problemi, pur naturalmente con sensibilità su diversi punti che sono plurali, come è evidente. Dall'altro lato, sul centrodestra vedo invece che io credo che sarà formazione di gruppi parlamentari che avranno necessariamente una certa dialettica. Ecco, quanto alla Lega, un'ultima cosa, è chiaro che qui il meccanismo è così in politica, cioè quando tiri da tutte le parti.